quando da una donna sento mormorar, bisbigliar, sospirar, tra carezze e baci piene di passion, nei momenti d'abbandon. Caro, per la vita sempre t'amerò, credi, te lo giuro, non ti tradirò. Io con un sorriso dico a lei di sì, ma vorrei risponderle così. Oggi no, ma domani chissà, quel che avverrà, qualcosa cambierà. L'avvenire è un mistero. Oggi no, il domani però, nessuno può lontanamente dire come possa finire. È la vita un gioco, una continua lotteria, certezza alcuna non v'è. La fortuna viene, ma però se fugge via, convien ridire tra sé. Oggi no, ma domani chissà, quel che avverrà, qualcosa cambierà. L'avvenire è un mistero. Ieri ci fu un tal che mi telefonò, protestò, minacciò, della casa dove alloggerà il padrone, a cui debbo 3 pigioni. Basta, mi gridò, sono stufo d'aspettar, vuoi sapere quando mi potrà pagar? E io l'avrei pagato pure lì per lì, ma dovetti invece dir così. Oggi no, ma domani chissà, quel che avverrà, qualcosa cambierà. L'avvenire è un mistero. Oggi no, il domani però, nessuno può lontanamente dire come possa finire. È la vita un gioco, una continua lotteria, certezza alcuna non v'è. La fortuna viene, ma però se fugge via, convien ridire tra sé. Oggi no, ma domani chissà, quel che avverrà, qualcosa cambierà. L'avvenire è un mistero. Una continua lotteria, certezza alcuna non v'è. La fortuna viene, ma però se fugge via, convien ridire tra sé. Oggi no, ma domani chissà, quel che avverrà, qualcosa cambierà. L'avvenire è un mistero.